Siamo con Paola Scarnati dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per parlare dell'iniziativa di lunedì 28 maggio al Cinema Farnese con la presentazione di due documentari inediti. Paola, benvenuta. Grazie, buongiorno a voi, grazie. Ce li presenti? Benissimo, vi presento questi due film a carattere documentario che sono molto ma molto interessanti e forse a suo tempo qualche proiezione, magari qualche passaggio l'hanno anche fatto, ma poi sono stati un po' dimenticati. Uno è Della Conoscenza, il film di Alessandra Bocchetti, fatto da Alessandra insieme a una redazione che era stata designata dallo stesso movimento studentesco. Infatti dentro ci sono, perché devo dire, Massimiliano Fuksas, Paolo Liguori, Sergio Petruccioli, insomma Oreste Scalzone, Andrea Silibo, ci stanno un po' tutti. Questo è uno. E l'altro è anche molto interessante, veramente, quello di Luigi Perelli, intitolato L'Escelì. L'Escelì, che era la parola con cui il presidente De Gaulle aveva definito il movimento studentesco francese con grande disprezzo. Questo film è veramente interessante perché oltre a tutto diciamo, la protesta del movimento studentesco, c'è anche, a differenza di molti altri film che si sono dimenticati di quella parte importantissima, e cioè la protesta del movimento operaio, dei lavoratori. Dall'altro ci furono delle cose anche terribili in Francia, se non mi ricordo male, ci fu addirittura morirono gli operai. Insomma, sono due film che non si possono non vedere per ricordare quello che è stato 50 anni fa, il maggio degli studenti, il maggio del 68. Però devo dire un'altra cosa importantissima: Sì. questa iniziativa al Farnese è un po', diciamo, serve un po' ad annunciare un po' l'antesignana di una iniziativa che vorremmo fare a novembre, no, che vorremmo, che faremo senz'altro con tenacia a novembre, il 5 novembre, faremo una giornata di studio e poi proietteremo in una serie di luoghi i materiali che riguardano proprio la produzione audiovisiva e cinematografica del movimento del 68. Sì. Paola, che durata hanno queste due opere? Queste due opere hanno dunque, Della Conoscenza dura 28 minuti, Sì. invece il film di Perelli, L'Escelì, dura 1 ora e 10. Senti, e si inseriscono comunque in un programma più generale. In un programma, appunto, quello che stavo dicendo, in un programma generale che vorremmo realizzare a novembre, che intendiamo realizzare a novembre. Perché a novembre? Intanto perché a novembre gli studenti hanno un momento di maggiore disponibilità e quindi non hanno scuse per non venirli a vedere. E poi perché dopo tutti in questo periodo stanno parlando del movimento studentesco, del maggio francese, eccetera. Forse una riflessione un po', come dire, a mente fredda, forse sarà molto utile. Un po' una riflessione a mente fredda, una specie di, come dire, di fare il punto poi su tutto quanto anche quello che si è detto. Sì. Dopo questa presentazione al Farnese, che tipo di fruizione sarà possibile per questi due lavori? E sono disponibili, Sono nell'archivio? disponibili, assolutamente disponibili, certo, Sì. sono disponibili. I materiali dell'archivio sono in teoria e anche in pratica sempre disponibili perché, come forse anche Ondarossa sa, l'obiettivo principale dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio è certo quello di raccogliere i materiali, conservarli, eccetera, ma soprattutto di farli circolare, farli vedere, fare in modo che sia un elemento di, che, anche, che i film siano un elemento di conoscenza, come Certo. diceva Zavattini, di conoscenza e di democrazia. Vista Speriamo. questa ricorrenza del 68, c'è una sezione appositamente dedicata nell'archivio? Non c'è un fondo appositamente dedicato, no, anche se insomma i materiali sul 68, in 68 e poi aggiungo, mi senti? Sì. Giusto? Ah, i materiali sul 68-69 in archivio sono tantissimi, Certo. quindi no, hanno la catalogazione, fanno parte del, non hanno uno, come dire, un fondo speciale. Sì. Però insomma, ci sono poi vari, diciamo, sono raggruppati anche perché per esempio ci sono appunto i cinegiornali liberi di Zavattini, c'è tutto il materiale che si chiama terzo canale, l'iniziativa che promosse il PC nel 68, dove ci sono dei materiali, delle documentazioni strepitose. Sì. Basta dirti che c'è un film sulla Spagna, fatto da un collettivo clandestino. Sì. Cioè, a un certo punto in Spagna nel 68, per un periodo, per un momento breve, fu occupata l'università. È tutto documentato e tra l'altro è documentato anche, diciamo, bene, è un bel cinema. Sì. Paola, prima di novembre ci sono anche altre date già fissate? Per quanto riguarda in particolare il 68, no, naturalmente voglio dire, tutti coloro che vogliono utilizzare questi materiali lo potranno fare, questi film, Certo, ma certo, saremo ben felici. Qualche certo. richiesta c'è adesso, qualche richiesta c'è, ma io non me la ricordo così a memoria. Ok. Comunque ti ripeto, i materiali sono a A disposizione. disposizione. Bene Paola, allora io ti ringrazio, ricordiamo questo doppio appuntamento al Cinema Farnese per il 28 maggio, con i due documentari Della Conoscenza e Le Chaînes Lites. Io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a te, anche perché abbiamo tantissimi progetti, uno soprattutto che vi racconterò e che vi piacerà tantissimo. Ci sentiamo presto, grazie. Benissimo, ci ricordi l'orario? L'orario inizia alle 18:30, ci sarà poi tra i vari interventi, a parte i registi naturalmente, ci sarà Luciana Castellina, ci saranno anche altre persone che vorranno intervenire, Vincenzo Vita che è il presidente dell'archivio. Insomma, sarà anche un bel dibattito. Bene, bene. Allora un abbraccio e a presto. Grazie, arrivederci.